Passiamo ora ad Anna Raffaella Farao, scrittrice in lingua francese, residente a Parigi, che presenta il suo primo libro, Il pianeta blu Myosotis, un libro al quale ho lavorato e che ho scelto di tradurre, per le caratteristiche insolite del testo, ricco di neologismi, e nonostante tutta la responsabilità che implica il tradurre fedelmente. Il pianeta blu Myosotis è la prima di una serie di opere che vedono come protagonista Bellatrix, bambina centenaria che vive su blu Myosotis, personaggio alla ricerca delle sue origini e di se stessa. Il libro è in versione bilingue, italiana e francese, illustrato da Pucci Violi ed edito da una piccola casa editrice bolognese, In Edition. Ascoltiamo ora l'intervista all'autrice, alla quale seguirà una sua breve lettura. Dunque, siamo qui per presentare Il pianeta blu Myosotis, che è un testo in cui entrambi abbiamo lavorato e che Anna Raffaella ha scritto e che io ho tradotto, e quindi che ha impiegato parte del nostro tempo. Io lo affronterò anche con un approccio critico, come ho fatto fin dall'inizio. Il pianeta blu Myosotis ha al centro un personaggio che è Bellatrix, che ha un rapporto del tutto inconsueto con lo spazio-tempo. Ce lo puoi presentare brevemente? Sì, certo. Questa bambina protagonista, che si chiama Bellatrix, compierà 100 anni e gli aspetta una sorpresa grandissima. 100 anni, giustamente, perché io ho voluto mettere l'accento nel mio testo sull'intemporalità, principalmente. Sì. L'intemporalità che probabilmente riguarda le vite di tutti noi. Sì, certamente. Quindi bambini, anziani, insomma, persone con maturità diverse si possono riconoscere sia nel personaggio che cominciare a pensare sulla loro vita, forse. Beh, sì, perché infatti gli anni che passano sono dei limiti di noi terrestri, potrei dire, e dunque questo mi ha molto incuriosito, e attraverso questo libro giustamente spiego certe cose riguardando questo aspetto. Le vicende di Bellatrix sono anche impreviste e Bellatrix sta per compiere il suo 100° compleanno. Cosa gli aspetta nel corso del racconto? Allora, lei giustamente non sa che ci sarà questa sorpresa preparata dalla nonna. Gli aspettano un mucchio di cose gioiose, ma anche inaspettate e anche un po' negative, ma tutto ciò giustamente per spiegare che anche nel negativo ci può essere sempre uno sbocco di qualcosa di bello e di gioioso, ecco. Sì, e tu dai molta importanza nel racconto alla sorpresa, al fatto che il protagonista, ma anche forse nell'esistenza di ognuno di noi, ci possa essere una sorpresa. Sì, perché secondo me una vita senza sorprese sarebbe molto monotona. E chi vive di sorprese belle, mi intendo giustamente, è un plus, è una colorazione in più che possiamo avere nella vita e che ci propulsa giustamente a fare delle cose più positive. Come si fa a fare una sorpresa giusta ad una persona? Allora, non dovrei io ad essere a spiegarlo, perché giustamente è l'immaginario di ciascuno di noi che deve entrare in conto con la fantasia, giustamente, e conoscendo bene la persona chi si vuol fare anche quella sorpresa, o non conoscendola bene neanche. Va bene, una domanda così extra che poteva essere interessante. Il libro ha un pregio, oserei dire, che contiene anche alla fine un glossario. Un glossario è uno strumento anche educativo che permette di capire dei particolari all'interno del tuo racconto. Ci vuoi parlare di questo glossario? Ti ha preso molto lavoro? Ah, beh, allora il glossario io ho capito perché in molti libri non se ne trovano, perché è una faticaccia quasi tanto come scrivere il testo, perché si deve andare a beccare tutte le etimologie, ritrovare nel testo le parole, eccetera. Sì. E poi ci sono tutti i termini inventati da me, e dunque devo pur dare una spiegazione, altrimenti i bambini non si ritroverebbero nel reale o nel surreale, ecco. Un altro particolare che è interessante, oltre al fatto che questo libro contiene anche un piccolo estratto audio che poi riproporremo subito dopo questa intervista, e un'altra parte interessante è che tu ti occupi di arredamento di interni, quindi ti sei formata a Parigi come arredatrice di interni e quindi svolgi questa attività, che è un'attività artistica perché riguarda l'equilibrio e l'armonia della casa e che poi è confluita anche nella scrittura. Che rapporto c'è tra queste due discipline che apparentemente paiono così distanti? E come l'hai detto tu, giustamente l'arredamento consiste in creare un equilibrio ed armonia in uno spazio definito attraverso delle scelte. E quindi con un approccio estetico, per me giustamente la scrittura non si differenzia da questa disciplina, perché crea un equilibrio e un'armonia nello spazio mentale. E dunque diciamo che c'è un'unità delle arti a questo punto qui. Quindi possiamo dire che come spesso tentiamo anche in questo programma di far notare, le discipline, le capacità artistiche degli esseri umani non sono così distanti e non sono così separate. Ma no, si possono applicare anche al quotidiano, in qualsiasi cosa che noi facciamo, che ne so, puoi cucinare e farlo con una dimensione artistica o lo puoi fare di un modo banale, insomma, è un esempio che mi viene così, ma in ciò che facciamo ci possiamo mettere arte. E questo è sicuramente un altro degli aspetti interessanti, per cui è sempre bisogna pensare che ognuno di noi può essere così protagonista di una espressione artistica e non esserlo soltanto a tempo perso, quindi ognuno di noi può fare attività e mestieri diversi così con passione, come fai tu. Io ti lascerei ancora uno spazio per esprimere un ultimo messaggio prima di mandare il tuo MP3 con la tua registrazione. Questo libro, evidentemente, come ogni libro, lascia un messaggio. Qual è quello che tu vorresti lasciare? Allora, il messaggio che io vorrei dire agli adulti specificamente è: conservate il vostro immaginario, poiché senza sarebbe un vivere in bianco e nero, laddove si può vivere a colori. Perché giustamente quando si diventa adulti, sfortunatamente si perde quella parte di fantasia, e questo è un dramma. Lyra, après quelques semaines d'un long voyage sur la nébuleuse d'Andromène, rentra chez elle à Vega. Elle alla rendre visite à sa petite fille unique Bellatrix, si précieuse et tant adorée. Elle était si heureuse de revoir sa grand-mère qu'elle hurla de joie et lui en serra si fort le cou qu'elle décrocha, dans son effusion, le collier de pierre de lune dont chaque perle avait un pouvoir magique. Les perles se mirent à virevolter autour d'elle, à rebondir du sol au plafond. Elles partaient dans tous les sens, percutant les parois de leurs bambas de verre. Elles dansaient dans les airs en clignotant. Tout cela ressemblait à un ballet de lucioles durant les chaudes nuits d'été. « Vite, vite !» s'écria Lyra. « Il faut les attraper une à une pour reconstituer mon collier. Autrement, je serai privée de mes pouvoirs tant que celui-ci ne sera pas autour de mon cou. Et il faudra alors que je consulte le grand livre des ancêtres pour avoir la formule secrète des pierres de lune. Or, ce livre était vieux de 20 millions d'années. Il aurait fallu retourner sur le lieu d'origine de Lyra, c'est-à-dire dans les entrailles d'un volcan éteint sur une planète lointaine. Et il aurait fallu 6 mois de voyage pour rejoindre ce lieu. Et cela était impossible, car Lyra voulait faire une surprise à Bellatrix. Dans quelques semaines, ce sera l'anniversaire de sa petite fille adorée. Et elle voulait organiser une grande fête à cette occasion, car ce sera la 100e année de la naissance de Bellatrix. Abbiamo ascoltato l'intervista ad Anna Raffaella Farao e una sua breve lettura. Il suo libro, Il pianeta blu Myosotis, è edito da In Edition Bologna. È reperibile sul sito della casa editrice, inedition.it, e nelle librerie in rete, fra cui webster.it.